Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, 10 gennaio. Da oggi, cari amici, si cambia, ma noi naturalmente cambieremo insieme perché il nostro programma, e sottolineo nostro, si trasforma. Insomma, alla continua ricerca del nostro benessere esploreremo nuovi spazi, vivremo nuove emozioni, allargheremo lo sguardo, diventeremo sempre più multitasking, una bella sfida sicuramente da affrontare, da cavalcare. D'altronde siamo sempre in cammino come persone e i cambiamenti, anche quelli piccoli, impercettibili, danno gusto e sapore alla nostra vita. L'importante è crederci, accettarli, viverli come un'occasione di crescita, di nascita, di rinascita, di rinnovamento, mi piace dire, senza rigidità e senza tanta paura. Ogni cambiamento crea paura, perché ogni cambiamento ti porta in un mondo estraneo, non familiare. Se nulla cambia, se tutto rimane statico, non hai mai paura. Questo vuol dire che se tutto è morto, non avrai paura. Ad esempio, ti siedi e vedi un sasso per terra. Non c'è nessun problema. Guardi la roccia e tutto va bene. Poi di colpo il sasso si mette a camminare, ti spaventi, è vivo. Il movimento crea paura. Se tutto rimane fermo, non c'è alcuna paura. Ecco perché la gente, temendo di cacciarsi in situazioni che fanno paura, organizza per sé una vita senza cambiamenti. Tutto rimane invariato e la persona segue una routine morta, assolutamente dimentica del fatto che la vita è un flusso. Resta confinata in un'isola da lei stessa creata in cui nulla cambia. La stessa stanza, la stessa casa, le stesse abitudini, le stesse pantofole, tutto rimane uguale. Tra tutto questo, in mezzo a queste cose che non cambiano mai, ti senti a tuo agio. La gente vive quasi come se fosse già nella tomba. Ciò che chiami una vita comoda, confortevole, non è altro che un tipo di tomba più sottile. Di conseguenza, quando inizi a cambiare, quando inizi il viaggio che ti porta nel tuo spazio interiore, quando diventi un astronauta dello spazio interiore e tutto si trasforma a grande velocità, ogni istante tremerà di paura. Ci sarà sempre più paura da affrontare. Lascia che ci sia. A poco i cambiamenti inizieranno a piacerti, tanto che sarai sempre pronto a ogni costo. Il cambiamento ti darà vitalità, più vitalità, energia ed entusiasmo. Allora non sarai più come uno stagno, chiuso da ogni parte, immobile. Diventerai come un fiume che fluisce verso l'ignoto, verso l'oceano in cui si dissolve. Osho. Osho mistico, maestro di vita. Il suo International Meditation Resort di Pune, in India, è famoso in tutto il mondo come il centro di meditazione più eclettico e completo. I suoi discorsi, raccolti in 600 libri, di cui 180 tradotti in italiano, continuano a influenzare milioni di persone di tutte le età e di ogni livello sociale e culturale. Sentire. Cambierò, tornerò come un tempo padrone di niente, di niente, di niente. Quale piccolo grande cambiamento ha aperto il vostro cuore, ha trasformato la vostra vita? Raccontateci le vostre esperienze, i vostri successi, le vostre fatiche, i vostri tentennamenti, le storie a lieto fine, quelle che il finale non l'hanno ancora scritto. Cosa vi ha trasformato da una montagna in una nuvola? 800 24 00 24, ma potete anche scriverci al 349 238 6666. Mandateci un messaggio, la vostra ricetta per ricevere a casa il nostro consiglio di lettura di oggi, che si intitola L'arte del cambiamento di Nardone. Non è necessario che mi parliate però di cambiamenti radicali, anche di cambiamenti così, proprio che sono intervenuti nella nostra vita, nati da un'idea. Magari provo a fare così, ed è quello che è capitato ad Alessandro, che nei giorni scorsi ti ha scritto una mail, e noi naturalmente l'abbiamo richiamato e gli abbiamo chiesto di raccontarcelo a viva voce. Andiamo. Buongiorno, sono Alessandro. Un piccolo cambiamento che ho fatto ultimamente è stato cambiare il mezzo di trasporto. Non ho scelto i mezzi pubblici, ma ho deciso di andare a piedi, nel senso che io sono un pendolare, arrivo dalla provincia verso la città, faccio qualche fermata in centro, poi prendo la metro, facevo 6 fermate, arrivavo finalmente al lavoro, ci mettevo 18 minuti di metropolitana contando l'arresto della gente, la coda eccetera. Poi un bel giorno ho deciso di scendere un po' prima alla stazione del mio treno e andare a piedi, e devo dire che è decisamente meglio, e ormai è un anno e mezzo che sia la mattina che la sera mi faccio 20 minuti di camminata, che ci sia pioggia, grandine, sole, quello che c'è, l'importante è andare di buona lena, e niente, devo dire che è decisamente meglio. Semplice come camminare, ce l'ha raccontato Alessandro. E cosa ci vuole in fondo a prendere i mezzi, usare i piedi invece dell'auto? Quello che però mi stupisce, ho considerato anche così sentendo le vostre storie che sono arrivate anche sul nostro profilo Facebook, che vi invito sempre a visitare, mi raccomando, è che come un piccolo cambio di rotta sia capace di innescare una serie di novità, quasi abbia un effetto moltiplicatore. In fondo, camminando invece di andare in auto, si possono riscoprire tanti piaceri, come quello di osservare di più la città, magari incontrare la gente, arrivare un pochino prima in ufficio, leggersi con attenzione il giornale o prendersi un cappuccio al bar con la brioche, e forse anche arrabbiarsi meno, no? Anche questo, cari amici, è un cambiamento, ne avremo sicuramente bisogno. Non sempre però, di tutti i cambiamenti abbiamo percezione e siamo consapevoli. Insomma, noi cambiamo, anch'io sto cambiando, sono le 11:16, sono un po' diversa rispetto a quando ho iniziato la trasmissione, non dico il 10 gennaio del 2005, ma proprio da oggi. Cambiamo anche senza accorgercene, e guai se non fosse così, perché dentro di noi abbiamo un vero e proprio laboratorio che è in continua attività. Ce lo facciamo raccontare dal dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottore. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori e tanti auguri a tutti di buon anno. Anche stando fermi, immobili, magari seduti sul divano, la sedia della nostra scrivania, qualcosa in noi cambia di continuo, e per fortuna, perché sono questi cambiamenti che ci tengono in vita. Esattamente, è proprio questo continuo cambiare e rinnovarsi del nostro organismo, ad esempio, che ci aiuta a mantenere solide le nostre ossa, tanto per dire, qualcosa di così immutabile come sembrano le ossa, così rigide, così resistenti, in realtà subiscono dei processi di cambiamento continui che sono proprio alla base della loro forza, funzionalità e elasticità, ma anche il metabolismo. Stiamo seduti, fermi a lavorare, convinti magari di non consumare calorie, intanto in quel momento consumiamo un po' di calorie e questo ci consente di bruciare quello che abbiamo mangiato. E poi via via anche il sonno, che è un altro di quei momenti in cui si pensa che l'organismo sospenda tutte le sue attività, non è assolutamente vero, continuano tutte le attività dell'organismo, addirittura il cervello durante il sonno con i sogni trova il momento giusto per recuperare quelle energie che ha speso durante la giornata, ma le recupera in maniera attiva. Insomma, il nostro organismo è una fucina continua di lavoro, continua di cambiamento, e poi ci sono i cambiamenti che vediamo, magari mangiamo un po' di meno, ci muoviamo di più, come il nostro ascoltatore che ha scoperto una cosa bellissima che è quella di camminare, e ci accorgiamo che possiamo godere dei piaceri della tavola senza ingrassare, anzi addirittura perdendo quei 2-3 kg in più che abbiamo messo magari durante le feste. Insomma, dobbiamo capire che questo movimento continuo del nostro organismo è una cosa particolarmente bella, insomma è la vita. Dottore, ma questo magnifico laboratorio a cui accennavamo funziona in autonomia e noi manco più ci pensiamo, perché quasi non dà segno. Il problema insorge quando invece avvertiamo cambiamenti non solamente fisici, questi, le rughe, la pancia, ma anche rumori, cambi di rotta, il cuore che palpita, no? Che il polso salterino. Dottor Gargiulo, lì iniziamo a dire: oddio, che cosa sta capitando? Qualcosa è cambiato. Esatto, ha centrato perfettamente il problema. Ci sono attività come il respirare o il battito del nostro cuore che noi normalmente non percepiamo, e quando le percepiamo probabilmente è il momento in cui dobbiamo stare un po' più attenti, non dico preoccuparci, però stare attenti, perché sentire il proprio cuore che batte spesso è segno o di una tachicardia, cioè di un'accelerazione del battito, o di un'extrasistole, magari un battito in più, un battito che è saltata l'armonia del suono del nostro cuore, e quindi ce ne accorgiamo. Ecco, se ci accorgiamo di questi segnali, magari bisogna fermarsi o soffermarsi su questi segnali e consultare eventualmente il medico. Un elettrocardiogramma, un ecocardiogramma possono essere particolarmente utili per capire che il nostro corpo ci ha mandato un segnale. Stessa cosa col respiro, tante volte ci capita a un certo punto di tirare, sì, un respiro profondo, sentire che respiriamo. Questo vuol dire che i nostri polmoni hanno bisogno di aria, e dobbiamo capire anche lì perché. Magari abbiamo fumato una sigaretta che non dovevamo fumare. Eccolo. Dottor Gargiulo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie Nicoletta, un saluto a tutti. Un abbraccio. Io abbraccio anche Rosa da Livorno, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Un abbraccio, che è un benvenuto, Rosa. Sì, sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Vi ascolto molto spesso. Brava. E volevo dare testimonianza riguardo a questo argomento, che è l'argomento del cambiamento. Sì. Io volevo dire che nella mia vita ho 57 anni, e da quando avevo 18 anni che lavoro, e ho cambiato 3 lavori, quindi ho lavorato 11 anni come segretaria in un cantiere navale. Poi mi sono stufata perché volevo fare qualcosa da me, ho comprato un negozio di ferramenta. Sì. Dopo altri 10 anni volevo cambiare perché non provavo più soddisfazione, nel senso perché per me il lavoro è iniziarlo, impostarlo e poi fare tutto ciò per portarlo al massimo dello sviluppo. Quando secondo me ho raggiunto il massimo dello sviluppo, non provando più soddisfazione, devo ricominciare da capo. Quindi dopo aver comprato la ferramenta, sì, per 11 anni, via, ho un altro. Lei cresce 4 ettari di terra, un'azienda agricola che era soltanto erbaccia, e ho piantato frutti, ho piantato olivi, ho fatto un agriturismo, e quindi io, diciamo, dal cantiere navale, allora Rosa, all'agriturismo, una vita in continuo cambiamento, con tanta energia, che è quella che ha passato a noi con la sua telefonata. Grazie a Rosa. Buongiorno a lei. 800 24 00 24. Oggi vogliamo farci ricaricare dai vostri messaggi. Come sempre, il nostro consiglio di lettura: arriverà a casa uno tra di voi che ci avrà mandato il messaggio, una ricetta, al 349 238 6666, testimonianze al nostro numero verde o sul profilo Facebook. Con il dottor Gargiulo abbiamo parlato di cambiamenti vitali, e questi sono indipendenti da noi, dalla nostra volontà è interna, ma oggi noi affronteremo insieme i cambiamenti di rotta, quelli un pochino più impegnativi: il lavoro, l'amore, la casa, anche i cambiamenti fisici. Alcuni ci sono imposti, altri invece rispondono ad una sana voglia di nuovo. Insomma, è come se quel giovane esploratore che c'è in ciascuno di noi si risvegliasse e decidesse che è arrivato il momento di uscire. Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno quella più intelligente, ma la specie che risponde meglio al cambiamento. Charles Darwin, biologo, geologo, zoologo e botanico britannico. E a Darwin piacerebbe molto l'ospite che abbiamo in linea, che come Darwin è uno dei più fini cervelli su cui la scienza conta. Buongiorno al professor Veronesi. Ciao Umberto. Ciao, piacere di sentirti. Anche a me. Senti Umberto, tu sei d'accordo con Darwin nel sostenere che la specie più forte è quella che meglio sa rispondere al cambiamento? Esattamente, i cambiamenti, come sai, possono essere ambientali, per esempio il riscaldamento della terra o il cambiamento del clima e così via, oppure possono essere introdotti dall'attività umana. Per esempio, negli ultimi decenni la nostra vita è stata completamente stravolta da un ingresso prepotente della scienza e della tecnologia, della nostra vita quotidiana proprio, dall'aereo supersonico alla televisione, televisione a colori, al plasma, telefonini, computer, il navigatore sulle auto, quindi proprio è stata trasformata. Allora, cos'è il mio pensiero? Il mio pensiero è che i paesi che hanno la forza, la capacità, l'intuito di fare proprie le scoperte scientifiche sono destinati a crescere. I paesi invece che rifiutano la scienza, rifiutano la tecnologia, sono destinati a regredire. Allora, un esempio del primo è la Cina. La Cina ha 1,5 milioni di giovani si iscrivono alle facoltà scientifiche ogni anno. La Cina fa il 90% dei computer del mondo, fa il 70% degli iPad, fa il 50% dei pannelli solari e così via. Quindi sta crescendo prepotentemente. L'Italia è sul fronte opposto. L'Italia rifiuta la scienza, è stato difficile far avere i treni a alta velocità, come tutti ricordano. Gli italiani non volevano i termovalorizzatori, gli inceneritori, io per aver detto che ci vogliono, sono stato accusato duramente, non vogliono la genetica in agricoltura, gli OGM, tutto il resto del mondo invece va in quella direzione, non vogliono il nucleare e tutto il resto del mondo va in quella direzione, pensi che la Cina ha un programma 120, non 12, 120 centrali nucleari. Quindi il rischio è proprio che il nostro paese sia destinato a regredire. Come vivi tu il cambiamento come uomo e come lo vivi invece come scienziato? Beh, come scienziato io sono ovviamente aperto a ogni sviluppo del pensiero dell'uomo, sia a livello scientifico, sia a livello anche filosofico, etico, culturale. Quindi ieri ho bevuto un dibattito sul testamento biologico, tu conosci la mia posizione. Ecco, queste sono grandi novità, eliminare le vecchie credenze a favore di uno sviluppo della razionalità dell'uomo, del nostro pensiero, delle nostre capacità intellettuali, è secondo me segreta per progredire. Assolutamente. E come uomo, Umberto? Beh, come uomo è difficile, sai, è difficile distinguere quanto c'è di me, dentro di me di scienziato e quanto invece è diverso. Ma come uomo io sono un uomo per mia natura sensibile, abbastanza sentimentale, e questi sono valori permanenti che resistono a qualsiasi cambiamento. Grazie al professor Umberto Veronesi per essere stato con noi. Umberto, ti abbraccio, alla prossima. Abbraccio, grazie a te. Grazie. E se volete essere aiutati, se state prendendo una decisione, siete un po' tentennanti, se un cambiamento vi è stato imposto e pensate di non avere la forza di farcelo perché vi sentite senza energia, io dico che questa è una buona occasione per chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Qui in studio con me ho Claudio Belotti, coach ed esperto in programmazione neurolinguistica. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ascoltatore. Autore di diversi libri, tra cui Allenamenti mentali in 60 minuti, comunicare con successo, e anche questo, no? Imparare a comunicare è già una parte importante del cambiamento. Tra l'altro il dottor Belotti può rispondere alle vostre telefonate in onda adesso, ma sarà con noi anche tra le 12 e le 13, per cui chiamando il nostro numero verde le nostre centraliniste vi metteranno proprio in contatto con il dottor Belotti, che vi aiuterà, vi darà una mano. Ma dottore, io voglio subito essere un po', non dico cattivella, ma mettere i puntini sulle i, prendendo spunto da una nostra ascoltatrice che ci ha scritto su Facebook, in pratica la domanda: ma che competenze hanno, che diritto hanno questi qui, questi coach, di dire che cosa devo fare io, dove hanno studiato, insomma che cosa avete di più, e poi come posso capire che ce l'avete veramente? Che bella domanda. Allora, innanzitutto un buon coach non dice a nessuno cosa deve fare. Un buon coach aiuta le persone a decidere cosa vogliono fare. Per dirla in parole povere, diciamo che un buon coach non dà risposte ma pone domande. Quindi un buon coach è come un buon amico, se vogliamo, che aiuta le persone, aiuta una persona a ragionare, a definire quello che è importante per lui e quindi poi a farlo. E per esempio, per riprendere il discorso della paura, aiuta la persona a allearsi con due cose che sono grandi alleati. Una è l'amigdala, che è questa nocciolina nel cervello, sì, responsabile per la paura, che fa in modo che noi non moriamo. Meno male, altrimenti, che paura, se non avessimo paura, no, moriremmo, certo. Perché c'è una signora in Inghilterra che non ha l'amigdala e deve essere guardata a vista perché non ha paura di nulla, quindi potrebbe uccidersi senza saperlo. E quello che viene chiamato secondo cervello, cioè tutto i centri nervosi dello stomaco. Sì. Di cui, come il dottor Gargiulo diceva, noi non abbiamo consapevolezza se non quando è troppo tardi. Mm. Se noi ci alleiamo con queste due cose e insegniamo alla nostra amigdala ad aver paura delle cose giuste, non di quelle sbagliate, allora possiamo fare quello che vogliamo. Allora la paura diventa una consulente che ci fa fare le cose con... E lei il vero coach. Esatto. Il nostro vero coach è, esatto, la nostra paura, ma la paura è intelligente. Due domande, esatto, per gli ascoltatori, per attivarli e intervenire all'800 24 00 24. Fate una domanda e il dottor Belotti ne farà due a voi, in pratica. Allora, due domande. La prima è: se siete sicuri che le vostre paure sono vostre paure? O è possibile che siano paure di qualcun altro? Che negli anni noi abbiamo raccolto qui e là senza nemmeno saperlo? E la seconda, che di fatto è una declinazione della prima, è: siete sicuri che avete ancora paura di questa cosa? Potrebbe essere che questa era una paura di tanti anni fa e noi, quando torniamo indietro, regrediamo un po'. È un po' come se io tutte le volte che apro un file Word vecchio tornassi con la versione del software vecchia. E non abbiamo fatto l'aggiornamento, quindi il coach aiuta a fare l'aggiornamento del software. Allora, aggiorniamoci insieme al nostro coach. 800 24 00 24. Mercati, meteo e poi di nuovo insieme con Filippa Oreggi in regia la parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. L'ho detto ora, anche questo è un cambiamento, voilà. Essere e benessere. Ti ricordi cosa mi hai detto una volta? Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Allora, a proposito di cambiamento, pensiamo bene, no? Facciamoci amici quella paura che diventa il nostro allenatore, la paura buona. Qua in studio con me Claudio Belotti, a vostra disposizione, se avete bisogno di qualcuno che vi aiuti a farvi delle domande. È questo, no? Esatto. 800 24 00 24 e noi abbiamo Matteo da Trento. Buongiorno Matteo. Buongiorno, in realtà da Trieste. Dall'anno trasferita qua, dal centralino. Ma potrebbe essere anche questo un cambiamento, no? Che dice? Potrebbe. Buongiorno e benvenuto, mi dica. Buongiorno ragazzi, intanto complimenti per il programma e mi scuso per la fonia che mi sta... Ma no Matteo, lei è perfetto, andiamo. Dunque, io chiamo per avere qualche informazione sull'opposto del cambiamento, ovvero quella grossa difficoltà che molte persone della mia generazione, io ho 33 anni, hanno proprio ad affrontare il cambiamento quando questo è necessario, un po' quello che è la procrastinazione, diciamo, estesa alla mia generazione. E io purtroppo mi chiamo in causa, nel senso che ho il problema che, nonostante mi renda conto che molti cambiamenti sono importanti e necessari, quindi a livello mentale ed emotivo è tutto chiaro, non ho delle assenze, diciamo, sì, concettuali, però ho grossissime difficoltà poi ad attuare questi cambiamenti. Cioè, un po' come, per fare un esempio pratico semplice, il fumatore che sa che deve smettere di fumare ma continua a fumarsi la sua sigaretta. Matteo, no? Il suo esempio è proprio calzante. Dottor Belotti. Allora Matteo, buongiorno. La procrastinazione, il rimandare è un'abitudine. Noi esseri umani siamo straordinari e tendiamo a fare sempre le stesse cose. Ora non entro del perché il cervello come funziona, però di fatto è che se noi facciamo una cosa tendiamo a rifarla, quindi se tendiamo a non farla tendiamo a non farla. Sì. Quindi ci sono un paio di cose da fare. La prima è: incominciamo, come diceva Nicoletta, con i piccoli cambiamenti, così ci abituiamo. Se io non vado in palestra per 6 mesi, non posso pretendere il giorno che torno di fare gli stessi esercizi con gli stessi pesi, devo ricominciare con pesi più leggeri. E soprattutto in sociologia c'è il concetto di gruppo dei pari, cioè le persone con le quali noi passiamo il nostro tempo. Il gruppo dei pari determina lo standard di vita che noi abbiamo. Il modo migliore per smettere di fumare è di circondarsi di persone che non fumano. e che quando noi diciamo a loro ho deciso di smettere di fumare, ci dicono bene, bravo, voglio darti una mano. Mentre spesso succede che quando un fumatore dice ai suoi amici fumatori voglio smettere di fumare, lo dicono vabbè dai, fai un tiro, tanto puoi smettere quando vuoi. Perché nessuno vuole che noi cambiamo, perché se cambiamo obblighiamo loro a cambiare. Quindi piccoli passi e soprattutto circondarci di persone che come noi vogliono crescere e migliorare. Questo funziona per il lavoro, questo funziona nell'amore, a volte la persona che amiamo ci lascia lì e siamo costretti a cambiare un cambiamento imposto. Insomma, bisogna iniziare dalle piccole cose, eh? Sembra banale come consiglio, e sono proprio le cose semplici che non si fanno e che invece potrebbero cambiare anche la visione che abbiamo di noi e ci aiuterebbero forse a credere in noi. In linea con noi io ho un amico, si chiama Maurizio Battista, lo conoscete tutti. Maurizio, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. A te. Io ti ho invitato e ti ringrazio per aver accettato, perché io parto da un titolo di un tuo spettacolo che è molto famoso, è diventato molto famoso, è stato applaudito, replicato, Dalle cantine al Sistina. Già nel titolo si capisce il cambiamento, tu sei un mago del cambiamento. Beh, io è anche un po' forzato, perché tanto parliamo anche un po' seriamente, poi magari diciamo di qualche stupidaggine. Nasce tutto da una separazione, sì. Mi ha scatenato questa pseudo libertà e ho tirato fuori questa vena comica che avevo dentro, però magari quando sai vivevo una vita familiare che non era malissimo, tra parentesi. E poi ho cominciato da 20 anni fa a fare questa cosa dalle cantine fumose, ecco, parlavate di fumo prima, sì. Fumose di Roma, Roma periferica maggiormente. E arrivare in 20 anni da autodidatta, con una cultura, lo dico senza vergogna, abbastanza bassa, ringraziando Dio, arrivare al Sistina, che È un bel successone. Insomma, uno dei teatri massimi italiani, della commedia, con un bel risultato, tra parentesi. Ma perché c'è stato un cambiamento che è scaturito da questo qua, insomma, anche un po' la ribellione, dico, ma perché non posso fare quello che mi piace? Ecco, ma e non avevi paura, ad esempio, di seguire questa, no, questa strada? Perché ciascuno di noi ha dei sogni nel cassetto, però dice, ma se mi butto e poi va male, dove non ho un paracadute, Maurizio? È vero quello che dici, però quando dentro c'è, non voglio fare santone, quando c'è dentro questo sacro fuoco, il piacere di contare con le persone, la mia ex moglie, lo dico, ma anche di cose private, tanto non è che so... Mi disse una volta, che gusto ci provi a ferire la gente? E come te lo spiego il gusto ci provo? È una cosa intrinseca, è una cosa dentro, che ne so. E questa mia comunicativa che viene, ripeto, da un vissuto, da lutti, problemi economici, tutto quanto, con poca cultura, messa sul palco, sai, la comicità poi nasce sempre dalla tragedia e dal dramma, perché se non si ride. Certo. E io ho cominciato raccontando il mio ex matrimonio, e questo faceva molto ridere, perché tutti quanti pensavano che era solo mio il problema, ma quando sono sposato hanno capito che era di tutti il problema. È vero. E come dice il professore, giustamente, dico io, ma devo circondare quelli non sposati. Qui ho sbagliato io. Mi sono circondato dei sposati. E così, insomma, ho raccontato la mia vita, ho racconto. Sì. La mia vita, scusate che qui tra qua i 24 cose da fa, ecco. E la mia vita, insomma, messa in modo un po' popolare, semplice, genuino, mi sta dando dei bei successi, ma sempre grazie alla gente, sì, ma infatti per questo, Maurizio, io cerco di tenermi stretta i miei ascoltatori, che sono i miei veri coach, mi fanno tante domande, ma mi motivano, mi coccolano. Maurizio, vogliamo dare non perché tu mi hai detto non voglio fare il santone, ma proprio una frase, un pensiero, una cosa che ci faccia andare avanti, ci faccia credere in noi stessi e dire ce la posso fa, come dite voi, posso svoltare, Sì, uno dei segreti, secondo me, almeno, è non sentire tutti quanti, perché se senti tutti quanti, ognuno ha il suo modo di vivere, se tu lo sai dentro dei pregi e i difetti. Ad esempio, se tu mi dici che mia figlia è viziale, ma che mi dice viziale, io lo so, certe cose non ce le vogliamo sentire, ma noi le sappiamo, sì. Sappiamo i limiti, io lavoro sui limiti, so che non so cantare e non canto. Bravo. E quello che fai, sì, veramente, io dico questa cosa... senza che nessuno poi fraintende, io ho 53 anni, ho più bisogno di emozioni che ho più bisogno di voglio emozionare. Me voglio emozionare, anche noi. No, scusate che lo dico umano, me voglio emozionare, voglio vivere delle cose così. Perché se mettiamo tutto sul lato consumistico, dei soldi, del materiale, me fa schifo questa cosa. Scusate se ve lo dico in modo così. No, no, no, bello diretto. Maurizio, ti abbraccio, anche noi vogliamo emozionarci. A presto, dove ti troviamo? Dove sei adesso in giro per l'Italia? Domanda di rito, ma che mi interessa? Adesso vabbè, esco da tg2.it, domenica facciamo Domenica In e a febbraio siamo al Teatro Olimpico. Vieni a trovarmi a Milano, perché così vieni qua in studio e così ci ricarichi, eh? Signori, grazie dello spazio, un abbraccio a tutti e buon anno un po' in ritardo, ma col cuore sentito. Grazie, grazie Maurizio. E noi andiamo a Pavia, c'è Vincenza. Buongiorno Vincenza. Sì, buongiorno. Eccomi. Sì, io chiamavo, alla prima volta che chiamo, per cui sono anche un pochino emozionata. Chiamavo perché ho un'esperienza che poteva essere un pochino simile, che rispecchiava un po' quelli che erano i comportamenti di chi cambia un po' vita. Sì. Io prima ho lavorato per circa 8 anni nel settore bancario, nelle banche d'affari. Dopodiché ho deciso di cambiare vita. Sì. E dedicarmi alla lavorazione della creta. Per cui adesso sono ceramista, mi sono diplomata successivamente e adesso sono maestro ceramico. È contenta? Io sono contentissima, innanzitutto per quanto riguarda il tipo di vita che faccio oggi. Sì. Contentissima anche di aver un po' abbandonato quella che facevo prima. Questo tipo di cambiamento però naturalmente non è stato facile, perché certo. Ha messo in moto tante paure, tante ansie relativamente naturalmente all'incertezza di essere una libera imprenditrice, una libera professionista oggi e invece essere una dipendente in passato, e per cui con tutti i dubbi. Però e anche Vincenza, lei ce l'ha fatta, quindi ha trasformato le paure che da nemiche in alleate. Un commento tra poco del dottor Bellotti, che vi ricordo è a vostra disposizione ora e tra le 12 e le 13. Tra l'altro il dottor Bellotti mi ha fatto una bellissima proposta: tra le vostre chiamate che arriveranno tra le 12 e le 13, lui ne sceglierà una particolarmente interessante o che ha particolarmente bisogno d'aiuto, che inviterà, e l'ascoltatore sarà invitato a partecipare ad un seminario che terrà a Milano. Sì, questo sabato faremo questo workshop chiamato Obiettivi, dove aiuteremo le persone a fermarsi e decidere cosa vogliono fare quest'anno e magari anche nei prossimi anni, e quindi magari fare qualche cambiamento per diventare come Vincenza un po' più felici e vivere una vita più emozionante. Quindi voi chiamate, magari vi seleziona, chiamerò anch'io se non mi ricordo di nascosto, magari seleziona me, 800 24 00 24, strade e di nuovo insieme. Essere e benessere. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. Ti vorrei un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Il nostro amico di oggi è Claudio Bellotti, che ci aiuterà a farci le domande giuste per affrontare il cambiamento. A volte siamo noi a voler cambiare, e nel caso delle nostre ascoltatrici ce l'hanno raccontata, a volte il cambiamento dobbiamo subirlo. O così, no? O mangi la minestra o fuori dalla finestra. Due strategie per ciascuna di queste situazioni molto diverse, perché cambiare, assecondare il desiderio di rinnovarsi, ci rende anche più consapevoli, più capaci di gestire le paure, le difficoltà che il cambiamento comporta. Quando l'amore ti lascia, il direttore o il tuo capo ti licenzia, la vedo dura. Quindi mi affido a lei. Proprio dei flash per capire bene. Allora, un famoso pastore americano diceva che se noi non decidiamo di cambiare, la vita ci metterà in condizioni di farlo. E Christopher Reeve, il famoso attore di Superman, disse per cambiare ci vuole o coraggio o una tragedia, e io consiglio il coraggio. Quindi la ricetta è semplicissima in entrambi i casi. Primo è decidere. Dobbiamo decidere cosa vogliamo. Noi non siamo abituati a decidere cosa vogliamo noi, ma lo lasciamo fare agli altri. Andiamo dal medico e chiediamo al medico cosa fare. Andiamo in banca e chiediamo alla signora della banca cosa faccio con i miei soldi. Dobbiamo decidere noi in funzione di quello che è importante per noi. Subito dopo aver deciso, bisogna agire, bisogna fare qualcosa immediatamente, anche di piccolo, ma che provochi il cambiamento. Quando la valanga parte piano, ma deve partire immediatamente. E terzo, subito dopo aver agito arriveranno i dubbi e le paure. E io ho scritto nel mio blog: se lasciamo vincere la paura, perdiamo tutti. Quindi quando agiamo dobbiamo crederci e circondarci di persone, di buoni amici o di un buon coach che ci aiuta a credere e a tenere duro quando ci vengono i dubbi. Quindi possiamo chiamarla anche all'800 24 0024 anche dopo la trasmissione tra le 12 e le 13, lo state già facendo, ci state scrivendo le vostre ricette, una di queste verrà selezionata, quella che ci inviate al 349 238 6666 tra le tante, troverete il messaggio che abbiamo scelto e che vincerà l'arte del, riceverà a casa l'arte del cambiamento di Nardone. E intanto vado a Bologna, c'è Silvia, buongiorno. Silvia. Buongiorno. Silvia, ha una ricetta? Buongiorno. Io ho una ricetta. Ecco. Siccome abito in campagna e dopo un inverno so che c'è sempre una primavera con nuovi fiori e nuovi frutti, per me il cambiamento, la ricetta di accettare bene il cambiamento non è vedere come la fine di una situazione, ma l'inizio di qualcosa di nuovo. Brava Silvia, bravissima. Ecco, guardiamo, anche se guardiamo nei vasetti, nelle piantine del nostro balcone, per chi non ha la fortuna di vivere in campagna, qualcosa si sta muovendo, quel qualcosa siamo noi. Silvia, un abbraccio. E noi, cari amici, siamo quasi in dirittura d'arrivo di questa prima puntata dedicata al cambiamento e che testimonia anche il nuovo corso che insieme vivremo quest'anno. Samuel Beckett ha scritto: il cambiamento viene come una brezza che agita le tendine all'alba e come un profumo discreto dei fiori silvestri nascosti nell'erba. Insomma, si cambia a piccoli passi, facendo poco rumore, ma vi faccio una promessa: non resterete delusi. A proposito di promessa, voglio questa settimana regalarvi una grande esclusiva, un'intervista che ascolteremo a piccole pillole con il grande boss Bruce Springsteen, che ha da poco pubblicato The Promise, il suo album da poco pubblicato, si intitola proprio così, La Promessa, ed è uno straordinario documento che fa da ponte tra un tempo che è stato e un tempo che sarà. Lasciatemi dire che è proprio la testimonianza di un tempo senza tempo, scritto nella seconda metà degli anni 70, non è mai stato pubblicato ed ora il grande artista lo ripropone a tutti i suoi fans in una versione che conserva, direi, tutta la freschezza del tempo, che unisce ieri e oggi, nostalgia e novità in una miscela inusuale. Sentite in questa intervista esclusiva il grande Bruce come lui parla di questo progetto, di come nacque, dei sogni, delle promesse di cui lo nutrì in quel febbrile lavoro di scrittura di canzoni di cui proprio Springsteen fu protagonista nei mitici anni 70-80. After Born to Run, I wanted to write about life in the close confines of the small towns I grew up in. Appena dopo Born to Run, sentii l'esigenza di raccontare la vita confinata in cittadine come quella in cui ero cresciuto. Nel 1977 mi ritrovai a vivere in una fattoria a Holmdel, nel New Jersey, e fu là che scrissi la maggior parte delle canzoni di Darkness. Avevo 27 anni e figuravo nella classifica delle top 40 canzoni degli Animals, come It's My Life e We Gotta Get Out of This Place. Erano intrise di una profonda coscienza di classe. We gotta get out of this place. We're infused with an early pop class consciousness. Questo associato alle mie stesse esperienze, lo stress e la tensione nella vita dei miei genitori dovute alle difficoltà di sbarcare il lunario, influenzò molto i miei scritti. Ebbi una reazione nei confronti della mia buona sorte. Mi posi nuove domande, sentii un senso di responsabilità verso le persone al fianco delle quali ero cresciuto. Cominciai a chiedermi come avrei dovuto affrontare quella sensazione. Tutto ciò mi portò alla svolta che ispirò Darkness. All of this led to the turn my writing took on Darkness. Nuovi pensieri, nuove speranze, nuove visioni, in fin dei conti una promessa è fatta. fatta, cari amici, anche da questi ingredienti, proprio come ha appena detto il grande Bruce. E anch'io voglio chiedervi di stare a cavallo tra ieri e domani, e da oggi comincio subito a farvi lavorare. Lavorate anche voi per me, insomma, mettete, mentre voi vi godete il brano The Promise, che dà il titolo a tutto il nuovo progetto di Bruce Springsteen, io vi chiedo di scrivere una mail a esserebenessere@radio24.it e di indicarmi quale promessa volete fare e vedere realizzata per la vostra vita e quella di chi vi sta a fianco per quest'anno appena cominciato. Ogni giorno potete scriverci anche, chiedo conferma di là del vetro a Laura Vanossi, sul profilo Facebook, mi raccomando. Ogni giorno noi sceglieremo una vostra promessa e grazie alla collaborazione con IBS farò arrivare a casa, alla promessa che abbiamo scelto, il CD The Promise, perché faccia proprio da colonna sonora alla realizzazione del vostro proposito. I cast in a few of my dreams. Well, now I built the Challenger by myself, but I needed money and so I sold it. I lived a secret I should have kept to myself. E per oggi, amici, è tutto. Io vi ringrazio perché sono arrivate tante telefonate, tanti messaggi, insomma, cambieremo insieme e soprattutto ce la faremo. E intanto a disposizione vostra tra le 12 e le 13 Claudio Belotti, il nostro coach, risponderà, vi farà delle domande e uno di voi sarà scelto, invitato da lui personalmente a partecipare al seminario che terrà proprio questo sabato a Milano. Buonissima giornata, grazie per essere stati con noi. Da Nicoletta Carbone un saluto.